Giovanni Paolo II, Uomo e Donna, li creò, Teologia del Corpo, numero 109. Mascolinità e femminilità come linguaggio oggettivo del corpo. Sia la femminilità della sposa che la mascolinità dello sposo parlano senza parole. Il linguaggio del corpo è linguaggio senza parole. Allo stesso tempo, questo linguaggio diviene in lei, come anche in lui, la sorgente di ispirazione per le parole, per questo singolare linguaggio d'amore che cerca mezzi di espressione nella metafora poetica. Le metafore del Cantico dei Cantici suonano oggi per noi arcaiche, non di meno ciò che esprimono, come anche la stessa forza con cui si esprimono. E questo ha conservato il suo valore. Sia dalla parte dello sposo, sia da quella della sposa, il linguaggio del corpo viene interpretato come linguaggio del cuore. È possibile che lo sposo, l'uomo, esprima più direttamente la bellezza della sposa e la propria attrattiva, scorgendola soprattutto con gli occhi del corpo. La sposa invece guarda piuttosto con gli occhi del cuore attraverso il suo affetto. Entrambi, tuttavia, lui e lei, esprimono ad un tempo, nelle strofe del cantico, meraviglia e stupore non soltanto per l'io altrui nella sua rivelazione femminile o maschile, ma anche per l'amore, mediante cui quella rivelazione si attua. Le parole dello sposo sono quindi un linguaggio sull'amore ed insieme un linguaggio sulla femminilità della sposa, che attraverso l'amore gli appare tanto degna di stupore e di ammirazione. Parimenti, anche le parole della sposa esprimono l'ammirazione e lo stupore, essendo un linguaggio sull'amore e un linguaggio sulla mascolinità dello sposo. Così dunque, nelle parole pronunciate da entrambi, viene espressa una particolare esperienza di valori che irradia su tutto ciò che è in rapporto con la persona diletta. Le tue labbra stillano miele, vergine o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Troviamo qui, sempre in uno speciale colorito, le trame di cui è piena la letteratura di tutto il mondo. La presenza di questi elementi nel libro che entra nel canone della Sacra Scrittura dimostra che sia essi che il rispettivo linguaggio del corpo contengono un primordiale ed essenziale segno della santità. Proseguendo sotto un altro aspetto la nostra analisi di quel ritmo in apparenza uniforme dell'amoroso duetto tra lo sposo e la sposa, cogliamo le parole su cui conviene soffermarci in modo particolare. Lo sposo dice: «Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore, con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto sono soavi le tue carezze, sorella mia, sposa». Per la teologia del corpo, e in questo caso per la teologia del segno sacramentale, è di importanza essenziale sapere chi è in quel duetto, dialogo d'amore, il femminile tu per il maschile io, e viceversa. Lo sposo del Cantico dei Cantici dice prima: «Tutta bella sei tu, amica mia», e nello stesso contesto si rivolge a lei: «Sorella mia, sposa». Non la chiama col nome proprio, solo due volte appare il nome sulla mita, ma usa espressioni che dicono più del nome proprio. Sotto un certo aspetto, la denominazione e l'appellativo della sposa, come sorella, sembra essere più eloquente e più radicata nell'insieme del cantico rispetto al chiamarla amica. Il termine amica indica ciò che è sempre essenziale per l'amore, che pone il secondo io accanto al proprio io. L'amicizia, l'amore d'amicizia, amore amicizie, significa nel cantico un particolare avvicinamento del femminile io della sposa, avvicinamento sentito e sperimentato come una forza interiormente unificante. Il fatto che in questo avvicinamento quel femminile io si rivela per lo sposo come sorella e che proprio come sorella è sposa ha una particolare eloquenza. L'espressione sorella parla dell'unione nell'umanità ed insieme della diversità femminile, dell'originalità di questa umanità. Questa diversità ed originalità non è solo riguardo al sesso, ma anche riguardo allo stesso modo di essere persona. Se essere persona significa non soltanto essere soggetto, ma anche essere in relazione, il termine sorella sembra esprimere in modo più semplice la soggettività dell'io femminile nella sua relazione personale, cioè nella sua apertura verso gli altri, verso il prossimo. Il particolare destinatario di questa apertura diventa l'uomo intero come fratello. La sorella, in certo senso, aiuta l'uomo a definirsi in tal modo. Costituisce, direi, per lui una sfida in questa direzione. Si può dire che lo sposo del cantico accolga questa sfida e dia ad essa una risposta spontanea. Quando lo sposo del Cantico dei Cantici si rivolge alla sposa con la parola sorella, questa locuzione significa anche una specifica rilettura del linguaggio del corpo. Questa rilettura è svolta espressamente nel duetto degli sposi. O, se tu fossi un mio fratello, allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre. Lo sposo le risponde: non destate, non scuotete dal sonno l'amata, finché non lo voglia. E più avanti: una sorella piccola abbiamo e ancora non ha seni. Che faremo per la nostra sorella nel giorno in cui se ne parlerà? E di nuovo le parole della sposa: io sono un muro e i miei seni sono torri, così sono ai suoi occhi, come colei che ha trovato pace. I suddetti passi provano in modo sufficiente che lo sposo del cantico accoglie la sfida che in rapporto al femminile io è racchiusa nel termine sorella. Questi passi chiariscono anche cosa significa che a quella sorella l'uomo si rivolge come alla sposa, perché la sposa rimane per lui sorella. Donde proviene la coerenza e non la divergenza di ambedue le espressioni e di entrambi i riferimenti. Il termine sorella usato nel cantico appartiene certamente al linguaggio del corpo. Ciò è peraltro evidente nei versetti citati, al linguaggio del corpo riletto nella verità del reciproco amore sponsale. Nello stesso tempo, questo termine sembra in modo semplice, benché fermo, superare la determinazione originaria di quel linguaggio e di quell'amore unicamente attraverso la libido ed aprire l'intero suo contenuto in maniera del tutto originale verso l'espressione sposa, allorché tale espressione nella bocca dello sposo viene congiunta al termine sorella.